madre ce l'ho fatta. E ce l'ho fatta perché col cuore a metà, ma pieno di te. Madre santa, acqua santissima, io figlio di un Dio, madre santissima. Santissima. E ce l'ho fatta grazie alla tua sacra donna. Grazie a me, Trinità, io figlio di un re. Sacra famiglia, madre ce l'ho fatta, con la voglia di spaccare. Il culo al mondo, madre santissima.